Okay, engine stop. Tranquility base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. Tu amico mio, qui da solo vuoi cercare, come sarà quando verrà l'aurora nuova? Così antica, così lontana dal mondo reale. Questa è la tua follia. Quanta luce che viene giù, amico mio, è una pietra che ti schiaccia il cuore, la luna. Ma tu non crederle, perché lei è solo un ladro bianco appeso in mezzo al cielo, che ti ruba i sogni e li porta via. La luz.